vissuto l'esperienza del regista sa che è molto più facile. No, non è più facile, però insomma è una cosa che ti crea meno stress, quindi che prendere meno decisioni, in cui quando finisce l'orario è finito, invece per il regista non finisce mai. Insomma, non riuscivo mai a estorcergli qualcosa di più che non fosse il suo lavoro. Devo dire, apprezzando molto questo suo atteggiamento, ecco, di non entrare mai in competizione, ma di collaborare veramente in maniera totalmente disponibile. Tornando alla sceneggiatura, su cosa hai puntato nella trasposizione? Ho puntato sul fatto che, partendo da aneddoti e quindi piccoli aforismi, cose minuscole, si potessero arrivare al profondo di se stessi, cioè di capire come sono le persone nel momento in cui pensano alla propria vita come un elemento che finisce, qualcosa che finisce, e che quando si rendono conto che il tempo a disposizione è finito. E questo è molto, questo è secondo me è il centro del film e della domanda che tutti a un certo punto ci facciamo e che vorrei che ti facessero anche gli spettatori. Nel complesso, il lavoro con il cast com'è stato? Sì, come sempre nei film. Come capita nei film. No, guarda, è stato un cast abbastanza piccolo perché i protagonisti sono 5. Sono Renato Carpentieri, Tony e Gift, e poi ci sono due bambini, due ragazzi che sono la loro prima esperienza, e poi c'è una costellazione di personaggi, di brevissimi professionisti trovati quasi tutti a Palermo, ma è un cast in cui ho cercato la verità, più che le facce conosciute, e soprattutto ho cercato di armonizzarle intorno allo strano modo di stare al mondo di Gift, che è a sua detta quello strano nelle comitive e anche nel film. Che uscita sarà? Sarà un'uscita importante di 350 copie, quindi un'uscita ottima, insomma spero che il pubblico ci vada rapidamente, perché poi arriva l'estate e poi non c'è più senso. 1:32 è solo 1:32. Allora, ricordiamo il film Momenti di trascurabile felicità dal cinema da giovedì 14 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Lucchetti. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Crepi lupo, alla prossima, ciao. Con Emanuela Piovano di Kitchen Film per parlare del film Nessun uomo è un'isola di Dominique Marchais al cinema da mercoledì 13 marzo 2019. Emanuela, ben trovata. Buongiorno carissimi. Ci racconti questo lavoro? Sì, allora questo è un lavoro bellissimo perché racconta modo abbastanza inedito, per una volta tanto, le utopie realizzate, perché si parla sempre di utopie come cose irraggiungibili oppure di ricerca per capire quali sono i problemi. Invece questo è una piccola ovazione a piccole situazioni limite, perché sono piccole utopie, ma grandissime. Per esempio, nella parte del leone la fa una cooperativa siciliana che si chiama Le Galline Felici, il cui fondatore Roberto Ricalzi verrà in alcuni di questi incontri di anteprima del film, che sono praticamente nate per riuscire a recuperare dei terreni che sarebbero stati condannati a diventare capannoni industriali, peraltro poi dismessi, perché oggi c'è tutta anche una speculazione sugli spazi che poi magari non rispondono alle caratteristiche, quindi vengono lasciati dismessi. E invece Le Galline Felici, che sono appunto dei produttori di agrumi che non si sono dati per vinti, e grazie anche ai gruppi di acquisto solidari spazi in tutto il mondo, riescono adesso a esportare i loro prodotti raggiungendo dei livelli di eccellenza. E questo film è di un francese, Dominique Marchais, un documentarista. Il Festival dei Popoli gli ha dedicato una retrospettiva, ha fatto tre documentari, ma con lui tra l'altro era un critico delle Zero Food, e quindi ha un taglio molto cinematografico, molto sapiente, e il film quindi è ambientato, girato in svariati punti dell'Europa, in Austria, in Germania, dove si trovano appunto piccole realtà felici, tipo, non so, l'architetto paesaggista che è riuscito a riportare delle persone, degli artigiani che erano scomparsi nelle piccole comunità nelle Alpi, eccetera, eccetera. A fare da filo conduttore c'è una stupenda Chiara Frugoni, sempre italiana, quindi un film francese, ma un film molto italiano, che è una medievalista, che qua racconta come filo conduttore l'allegoria del buono e del cattivo governo, che è quell'affresco che c'è in palazzo comunale a Siena di Ambrogio Ventetti, dove appunto già nel Rinascimento si vedevano questi terreni curati o lasciati invece alla devastazione. E quindi con questo film non c'è musica, film molto rigoroso, è veramente un'immersione in questa esperienza del paesaggio come esperienza di un paesaggio che ci accompagna, che ci è vicino, con cui bisogna avere un rapporto, un dialogo, insomma. E la cosa inedita di questo film è appunto che per una volta vediamo delle cose realistiche realizzate e quindi godiamo insieme a loro di questi piccoli squarci, insomma, nella devastazione, ecco. Emanuela, quante sono le realtà presenti nel documentario e da quanti paesi? Dunque sono più o meno, saranno 5-6 paesi, c'è la Germania, c'è l'Austria, c'è la Francia, c'è l'Italia, sono tutti paesi più o meno del centro Europa, diciamo, centro-sud Europa, e, diciamo, identificati dal regista come appunto punti sensibili a questa rinascita delle civile, delle persone che cercano anche di ripopolare per certi versi alcuni posti destinati invece ad essere abbandonati. C'è appunto la Germania, l'Austria, la Francia e l'Italia. Ci sono appunto degli architetti paesaggisti, dei sindaci che hanno fatto delle loro piccole comunità un fulcro di inclusione anche e di eccellenza, rilanciando cioè gli artigianati. Ma la cosa che è molto divertente, per esempio, c'è una di queste azioni è consistita nel mettere delle specie di cornici, no, di legno, capanne, cornici, dei punti strategici di un posto delle Alpi, in cui le persone che passano, ma gli stessi contadini, si accorgono improvvisamente della forma del paesaggio, perché venendo inquadrato il paesaggio assume un volto, no? Assume, come dice, un ritratto, e quindi anche molto cose anche strane, ecco, non necessariamente legate ad un ciclo economico, eccetera, ma veramente una comunità che decide di finanziare degli aspetti puramente, diciamo, estetici, perché in realtà credono in una relazione, nella scoperta di questo altro che questo paesaggio, per esempio. Quali sono gli esempi che più ti hanno impressionato? Ma appunto questo, per esempio, questo del giovane architetto che si è inventato queste camere prospettiche, queste camere oscure, in realtà chiare perché aperte, poi sono delle cornici disseminate nel paesaggio, mi ha molto colpito. E qui c'è l'intervista, anche tutto il lavoro che lui fa. E poi certamente sono stata anche molto sorpresa di vedere come i francesi siano legati alla nostra scuola, per esempio, dei territorialisti, no? Uno di cui il capostipiti è stato proprio il primo marito di Chiara Frugoni, che era Salvatore Fettis, e poi insomma tutta questa scuola che per i francesi e per gli altri noi in realtà siamo all'avanguardia nel mondo con questa, ecco. Quindi questo mi ha molto colpito, di trovare in un film francese tanta italianità, tanta tradizione italiana, da partire appunto dall'epoca comunale, rappresentata per esempio in questo caso dall'affresco di Siena, no? E poi questa cooperativa delle Galline Felici, che occupa peraltro più o meno i due quinti del film, e quindi occupa uno spazio molto, molto importante, dove vedendo il film si vive un po' insieme a loro, perché si vedono le loro relazioni, anche a volte conflittuali, si vedono le riunioni della cooperativa con tanta fatica messa in piedi, si vedono le loro problematiche, ma anche le loro eccellenze, i loro successi. Quindi mi ha molto colpito questo aspetto, che tante volte noi italiani non sappiamo, invece vengono dai nostri cugini o di oltranza, che ci aiutano a scoprire anche delle parti a noi nascoste. Finora dove è stato all'estero il documentario? finora è uscito in Francia e ha fatto anche parecchi ingressi, perché poi la Francia è molto sensibile a, a questi temi, e noi siamo il secondo paese che lo distribuisce. Mm-hmm. Che uscita sarà in Italia? Beh, sarà un'uscita a macchia di leopardo, come sempre per questi film, però capillare, e quindi con molte sale che hanno manifestato tra l'altro un interesse molto spiccato, e quindi siamo anche molto contenti di verificare ogni volta che poi su dei film che magari a volte disperiamo di riuscire a trovare l'uscita, invece qualcosa sta cambiando, si sta muovendo. Anche in questo penso di star assistendo a una, diciamo, una nuova ondatina di piccole utopie realizzate, no? Perché per me far uscire questo film è una piccola utopia realizzata, siamo riusciti comunque a creare una piccola rete. Verranno, tra l'altro verrà Roberto Di Cassi, verranno dei rappresentanti degli animifici a distribuire l'arancia e i loro prodotti a coloro che verranno a vederlo in anteprima, appunto ricordo a Roma giovedì. A Roma mercoledì, domani, a Milano giovedì, a Torino lunedì, a Bollengo in provincia di Torino, chi vuol venire, è molto divertente, faremo questi giorni di orologia, che sono dei giorni in onore della via Francigena, di una chiesetta di Sant'Eurodio che c'è su questa via Francigena, dove abita anche in co-housing un gruppo di persone impegnate nel rapporto col paesaggio, ma anche nel rapporto relazionale tra le persone, quindi un'idea anche che ci sia molto da fare per raccontare, per indagare, insomma, sulle buone relazioni. E quindi se a chi vuole l'ingresso libero può venire a Bollegno in provincia di Torino il 17, e ci sarà Dominique Marché, dove nascerà solo a Bollengo, ci sarà Roberto Di Cassi, ci sarà il direttore regionale della Confagricoltura, ci saranno anche rappresentanti della CIA, perché dopo c'è un altro film che chiude la rassegna sulle pastore di Anna Kauder, che ha vinto il primo premio a Torino Film Festival quest'anno, e poi ci sarà un punto sull'UNESCO, perché Ivrea è diventata patrimonio dell'UNESCO, noi lo stiamo aspettando per la via Francigena, e quindi insomma ci sarà una piccola kermesse. E quindi chi vuole vedere Nessun Uomo Isola, ad esempio, può venire a Bollengo alle 10 del mattino di domenica 17, oppure lunedì a Faipoti, a Torino, alla sera alle 20, e poi il 20, quindi mercoledì prossimo, non è ancora confermato, ma dovrebbe essere a Padova, e poi ancora ad Ancona, Bologna, Firenze, allo Stensen. E insomma, poi chi vuole può anche prenotarlo, perché ormai lavoriamo anche molto con gruppi di interesse, no? Quindi chi vuole ha voglia di organizzare un gruppo, siamo a disposizione, Kitchen Film è a disposizione su kitchenfilm.com per ricevere eventuali prenotazioni e aiutare questi gruppi a trovare la sala per loro nel loro territorio, eccetera. Bene, i riferimenti ce li hai dati, allora ricordiamo il documentario Nessun Uomo è un'isola di Dominique Marché al cinema da mercoledì 13 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuela Piovano di Kitchen Film che lo distribuisce. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto! Grazie, viva il lupo! Ciao! Ciao! Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare del film Sofia di Maryam Ben-Barek, in uscita al cinema da giovedì 14 marzo 2019 con una serie di anteprime in giro per l'Italia, tra cui a Roma venerdì 8 al Cinema Aquila. Paolo, ben trovato. Ben trovati a tutti voi e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ci racconti di questo film? Sì, con molto piacere presentiamo Sofia di Maryam Ben-Barek, che è un'opera prima che era in concorso all'ultima edizione del Festival di Cannes nella sezione Ancestral Regard, che è la seconda sezione ufficiale del festival, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura. Infatti è un film che è abbastanza breve, soprattutto se lo confrontiamo con le durate a cui siamo stati abituati negli ultimi tempi, perché è un film che dura 1 ora e 20, e in 1 ora e 20, senza soluzione di continuità e senza sospensione narrativa, seguiamo delle vicende legate alla protagonista che è Sofia, alla sua maternità e tutta una serie di evoluzioni che ci portano poi dentro la società marocchina, ma in realtà scopriamo che poi è la nostra società e la società anche europea, perché partiamo dal problema che è indicato proprio a inizio film di un articolo della legge del Marocco che impedisce ad una donna di partorire un bambino, di avere un figlio al di fuori del matrimonio. Però poi le evoluzioni della storia ci portano a scoprire il problema reale, che è quello del potere, delle disuguaglianze sociali e del potere di di un ceto sociale, non voglio dire di una classe, perché se no sembra una cosa più una lettura tipicamente marxista, anche se ci può stare, però sicuramente il potere e il potere delle classi sociali più abbienti sulle classi sociali più deboli sicuramente esiste, ed è un problema che a quel punto il film ci pone con la leggerezza di una sceneggiatura avvincente, e però ci pone, a questo punto ce lo pone anche come europei, non c'entra più soltanto il Marocco. In generale l'immagine è quella di un paese in cui c'è una forte repressione e in cui le scappatoie si basano su una forte ipocrisia poi alla fine. Sì, la repressione di fatto sta anche in leggi come questa, però le scappatoie e l'ipocrisia, se un'ipocrisia è legata a dei ceti sociali, perché è legata all'onore di un ceto sociale, cioè se io sono potente devo salvare l'onore non solo mio personale ma di tutta la famiglia, e allora questo diventa un problema che secondo me ci ritroviamo anche da noi, appunto, non è più solo marocchino. Esiste però all'interno della storia il problema che è attualissimo della violenza sulla donna, e proprio per questo partiamo con le anteprime l'8 marzo, e l'8 marzo mattina ci sono le anteprime stampa e poi dalla sera le anteprime a partire da quel giorno in tutta Italia girando con la regista, ma perché comunque il tema della donna e del nascondere la violenza per necessità è un problema che, di cui si è parlato e si parla ormai da anni, è partito in modo clamoroso anche dal caso Weinstein, ma comunque è un tema che esiste e che però interroga innanzitutto chi donna non è, perché anche se noi personalmente non siamo colpevoli di nessun atto contro nessuna donna, però il genere maschile si deve interrogare comunque su come sta il mondo e la società nei confronti del genere femminile, perché un problema esiste se in tutte le parti del mondo viene fuori e delle donne lo tirano fuori in questo modo, anche in questo modo artistico se vogliamo, cinematografico, ma pur sempre interrogandoci, anche colpendoci nel senso più profondo del termine, ovviamente non nel senso violento ma nel senso più profondo del termine. E quindi immergersi in questa storia, anche l'empatia con i personaggi, con Sofia e con il figlio, ma allo stesso tempo capire che esiste un problema non solo di classi, di ceti sociali, di potere, ma esiste anche un problema di uomini e donne e di come organizziamo la nostra convivenza nella società di qualsiasi parte del mondo, in questo senso. Paolo, cosa ti ha conquistato di questo film? È proprio questo, la capacità di partire in un modo e finire in un altro, anche se ovviamente non raccontiamo come si evolve il film e come finisce, ma questa capacità di avere degli sviluppi di sceneggiatura molto molto veloci, molto avvincenti, e che allo stesso tempo però colpiscono nel profondo, perché sono profonde le riflessioni che poi evocano. Cioè, il film è abbastanza d'azione, ma allo stesso tempo si evocano riflessioni molto interessanti, molto importanti nella società in breve tempo, ma il tempo scorre ancora più veloce della brevità del film. E credo quindi che il premio alla migliore sceneggiatura, che la giuria preceduta da Benicio del Toro a Cannes ha attribuito a questo film, sia più che meritato. Poi il film ha vinto altri premi in giro per il mondo, migliore opera prima a Cartagine, premio Fipresci a Tessalonica, ed è stato da poco designato film della critica dal sindacato critici cinematografici italiani, e quindi questo è sicuramente un riconoscimento anche del fatto che quest'opera prima di una donna, appunto, a proposito di una donna, ha anche un valore cinematografico molto elevato, oltre che un impatto narrativo molto molto avvincente, e questo mi ha indotto a portare il film in Italia, e l'esserci riuscito per me è anche importante perché continua nella linea editoriale di Cineclub Internazionale. In quante sale? Questo credo che sarà una bella uscita, perché appunto tra le anteprime e anche le uscite in programmazione anteprima e poi la programmazione ordinaria a partire dal 14, credo che riusciremo già a partire con 20 sale, ma distribuite su tutto il territorio nazionale. Questa è un'altra cosa importante, cioè, quindi anche il sud, anche Napoli, anche Bari, Cagliari. Questo è molto molto importante secondo me, perché partire con 20 sale ma distribuite nel territorio significa una partenza molto molto buona, e spero che il pubblico, sono convinto che il pubblico l'apprezzerà, e questo porterà il film a girare ancora di più, è quello che vogliamo, e gli incontri con il pubblico della regista sono un'altra caratteristica del Cineclub Internazionale. Sono molto contento che riusciremo a organizzarne così tanti nel giro di ben 10 giorni. E allora ricordiamo il film Sofia di Meryem Benbarek al cinema da giovedì 14 marzo 2019, con una serie di anteprime in Italia a partire da venerdì 8 marzo. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione, un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, viva il lupo, auguri a tutti gli ascoltatori. Grazie. Enrico Masi e Stefano Migliore per parlare del loro documentario, terzo capitolo della trilogia Shelter, Farewell to Eden, poi anche del 15° compleanno della cooperativa che produce cinema di ricerca sperimentale Caucaso, e poi il loro appuntamento a Roma il 14 marzo al Covo Cine Club, in cui presentano dei brevi film. Ben trovati. Buongiorno, buongiorno. Cominciamo da questo documentario, Shelter, Farewell to Eden. Di cosa si tratta? Dunque, dopo appunto 8 anni di lavoro, dal 2011, abbiamo concluso questa trilogia dei grandi eventi. Qualcuno l'ha chiamata anche la trilogia degli eroi, perché in ognuno dei 3 capitoli abbiamo approfondito la storia di personaggi la cui resistenza è diventata un po' simbolica e metaforica di una lotta globale alla neutralizzazione. Prima si parlava di neutralizzazione degli spazi causata da Olimpiadi Mondiali di Calcio nei primi 2 capitoli, The Golden Temple e Lepanto. In questo caso si parla di un nuovo grande evento. Abbiamo fatto come al solito un salto acrobatico, carpiato, e l'ultimo grande evento è la crisi umanitaria. Ovvero, secondo una teoria economica, quando abbiamo un grande evento, che può essere non soltanto appunto un'Olimpiade, ma anche un evento catastrofico naturale, come pensiamo al caso dell'Aquila, oppure un evento sociale come questo globale, come è stata la crisi umanitaria degli ultimi anni, si liberano economie finanziarie che diventano poi luoghi di speculazione. Speculazione non soltanto finanziaria e economica, ma anche umanitaria. E quindi abbiamo seguito questo caso di attraversamento di confine di una persona filippina che rientra nel flusso dei migranti, arriva dalla Libia, insomma, in Italia, prosegue per tutta la penisola italiana, oltrepassa le Alpi, va in Francia, va a Parigi, cercando di arrivare all'Inghilterra, al sogno europeo, però viene bloccata, diciamo, da forze oscure. È un documentario complesso che abbiamo prodotto insieme a Rai Cinema e verrà distribuito dall'Istituto Luce, poi ci sono anche delle regioni coinvolte e molte associazioni di attivisti. Raccontiamo anche un po' com'è nata l'idea e come l'avete sviluppata, come ci avete lavorato sopra. A partire da una collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna, abbiamo creato una convenzione che ci ha permesso di avere tanti ragazzi e ragazze, giovani sociologi, che ci hanno aiutato nell'analisi qualitativa dei materiali raccolti, perché l'approccio è stato appunto una campagna di osservazione partita a Bologna, poi spostata in Sardegna, poi passata attraverso, diciamo, la Liguria, Genova, Ventimiglia, focalizzandosi su Ventimiglia come una sorta di casa italiana, questa zona temporanea dove un grande flusso, un grande numero, soprattutto negli anni appunto di 2016-2017, si è fermato nel tentativo di attraversare la Francia e poi abbiamo continuato appunto in Provence, Côte d'Azur, a Nizza e sulle Alpi fino a Parigi. Osservazione, 90 ore di materiale, poi appunto analizzato in maniera anche scientifica e poi a livello drammaturgico io e Stefano firmiamo il soggetto e con un anno di montaggio che ha visto anche tra l'altro molti avvicinamenti e alla fine lo ha montato Giuseppe Petruzzelli che è il montatore di tutti e tre i capitoli, quindi siamo molto felici anche di avere mantenuto e nutrito una grande squadra di filmmaker, cineasti nel corso di questi anni. Scelta è molto complesso, ci sono molti archivi, c'è stata una collaborazione con vari archivi, Super Ottimisti di Torino e anche con la Società Umanitaria di Alghero che ci ha fornito supporto e materiali. È un film molto complesso, bisognerebbe prendersi molto tempo e credo infatti che ci prenderemo forse questo tempo al momento dell'uscita in sala. Anche questo è importante perché riuscire a trasmettere in Italia e non solo, perché il film andrà anche all'estero, un filmato che comunque per noi è sperimentale, cioè un modo di fare cinema ancora di ricerca, ancora diciamo sospeso tra i generi, per me è importante che venga distribuito nei canali tradizionali. Quali sono state le scoperte, le verità di questa ricerca? Come al solito mi era già successo anche con i film precedenti, ho attraversato questa parola che ritorna, un tunnel in tutti i sensi, emotivo e diciamo relazionale, esperienziale, che mi ha cambiato la vita, nel senso non è facile trovarsi al confine tra Italia e Francia, quindi tra due delle nazioni io direi più, anche più borghesi, più dove il comfort, la vita, il benessere è più evidente al mondo, tra tutti i confetti, ma esiste anche questo, soprattutto in Provenza, in Costa Azzurra, dove questa cosa, Riviera dei Fiori, Sanremo, è cioè molto evidente questo benessere, trovarsi in questo luogo e poter attraversare il confine senza essere fermati, mentre un'altra persona di un'altra nazionalità venire bloccata per lo stesso motivo, per il fatto di non essere comunitaria, per il fatto di non essere del tuo colore della pelle, ma veramente a partire probabilmente anche dal colore della pelle. Noi abbiamo osservato e registrato il sopruso in parte della polizia francese, dello Stato francese nei confronti di minori che hanno attraversato, tentavano e tentano di attraversare questo confine. Poi devo anche ammettere, questa sarà la campagna che faremo nel lancio del film, sono morte molte persone a causa dei confini, molte persone, adesso io non voglio dire che sono 50, che sono 5.000, non è il dato statistico il punto, infatti questa è un'altra questione, la statistica che a volte privilegia il dato quantitativo sul dato qualitativo, non è la statistica, anche una vita umana conta e una vita umana perduta a causa di un progetto europeo di gestione dei confini non riuscito, che in questo momento non è funzionante, credo sia il motivo per cui occuparsi e impegnarsi da cittadini europei, italiani e anche europei, di questa questione dei confini. Passiamo al secondo argomento, Caucaso, il 15° compleanno di questa cooperativa, ce ne parli un po'? Ciao, buongiorno. Ciao Stefano. Ciao carissimo. Dici tutto di Caucaso. Caucaso compie 15 anni e lo fa con coraggio, con lo stesso coraggio con cui è partita. Da 10 anni sono il presidente di questa realtà che si muove tra cinema sperimentale, cinema di ricerca, musica e fotografia. Negli ultimi anni abbiamo anche offerto percorsi di tirocinio strutturati. Da questi percorsi di tirocinio in alcuni casi sono anche nati dei progetti di film, di documentario che Caucaso ha curato e gestito, arrivando anche a degli accordi di coproduzione con dei risultati davvero belli e interessanti. Una delle particolarità, credo, è anche una delle cose più belle della nostra realtà, è appunto questa attitudine alla condivisione e alla partecipazione sui vari progetti che abbiamo in corso d'opera. Quando si manifestano degli interessi e delle intelligenze, novità, anche delle energie nuove che ci arrivano da università non solo italiane, anche europee e mondiali. È sempre molto bello condividere esperienze e lasciare che le idee diventino qualcosa di comune, diventino qualcosa appunto di condiviso da portare avanti e da realizzare in varie forme, perché per esempio dall'anno scorso abbiamo prodotto anche due audio documentari, un'esperienza molto bella e molto interessante, soprattutto anche molto creativa, perché c'è un grande spazio che noi abbiamo sempre dedicato al suono, e quindi la radio, l'audio documentario, la realtà dell'audio documentario è un nuovo ambito nel quale ci stiamo affacciando. Abbiamo l'anno scorso prodotto due audio documentari, uno per la Svizzera, uno per l'Italia. Quello per l'Italia si intitola Racconti dalla frontiera ed è una delle costole del progetto di Shelter, che è un progetto che vuole essere multiplanare, con la possibilità quindi di poter dare spazio a materiali e informazioni che nel film documentario magari non hanno trovato la propria collocazione. Un altro aspetto di cui sono molto fiero della nostra realtà è di come sempre in onore a questo principio di coinvolgimento, di condivisione, sia diventato, abbia assunto anche un valore terapeutico, perché Caucaso è una startup innovativa a vocazione sociale e a partire dal 2018 ha iniziato a proporre percorsi formativi o più che altro di condivisione con persone che sono seguite da servizi sociali, insomma con persone che cercano in qualche modo di uscire da una condizione di difficoltà, e l'arte, la creatività sono uno strumento molto importante e che riesce a infondere una nuova fiducia, un nuovo coraggio in queste persone, e noi lo facciamo appunto condividendo esperienze, condividendo idee, condividendo una volontà di voler raccontare delle storie, di voler comunicare qualcosa, ma soprattutto di voler fare delle cose insieme, quindi creare situazioni, atmosfere di empatia, di dialogo fuori da un contesto prettamente terapeutico, ma il cui valore finale ha un evidente e un fortissimo impatto terapeutico. Per cui la realtà di Caucaso continua a muoversi e continua a crescere, soprattutto grazie alla nostra apertura e all'aiuto che noi possiamo ricevere da tutte le persone, da tutti gli amici che poi diventano anche collaboratori, soci e compagni di avventure e di viaggio. E arriviamo al terzo argomento, ossia la proiezione di brevi film politici a Roma, al Covo Cine Club, giovedì 14 marzo 2019. Ce ne parlate? Ti ripasso Enrico, che ha curato lui questa serata. Io ti ringrazio e ti abbraccio fortissimo. Un abbraccio, Stefano. Ciao carissimo. Ciao. Ultimamente abbiamo iniziato a collaborare con questo collettivo romano che ha al Covo Cine Club, non posso nemmeno dire l'indirizzo, da tanti anni cura programmi di film noti e meno noti. Noi ci siamo affacciati con questa realtà quest'anno e è già il secondo programma che presentiamo su quelle che chiamiamo le regie collettive Caucaso o i film politici di Caucaso. La scorsa volta abbiamo presentato tre lavori: Viva Pretoriani, sul Regime Olympique e per Legittima Difesa. Questa volta presenteremo I Colonnelli di Roma e Giussano. sono due film, che Colore di Roma è ambientato completamente a Roma ed è dedicato al 50, è stato realizzato durante il 150esimo dell'Unità d'Italia, con grandi protagonisti come Montaldo, Antonio Resta, Enrico Ghezzi, anche Marco Pannella e Carmen Giardina, sono una serie di personaggi che noi abbiamo frequentato nel corso degli anni, Peter Berling, quindi Colonnelli di Roma è questo affresco romano molto eccentrico, e invece Giussano è un film che abbiamo realizzato 10 anni fa all'interno di sedi giovanili del partito allora della Lega Nord, anche quello appunto, come diceva Stefano, era una tesi di laurea di una giovane politologa che ci ha permesso di entrare in ambienti molto, molto protetti, difficili da raggiungere, e oggi è un documento, abbastanza incredibile di come un partito italiano si sia sviluppato, e quindi lo presentiamo al pubblico romano il 14 di marzo. Ho visto che c'è l'evento Facebook per tutti i riferimenti, così anche per Caucaso e il vostro shelter. A questo punto un saluto, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, grazie Roma. Co-regista Stefano Liberti presenta il documentario Soyalism in tour, con appuntamento a Roma al Nuovo Cinema Aquila, con proiezione e incontro con gli autori venerdì 15 marzo 2019 in occasione del Global Strike for Future. Stefano, ben trovato. Ciao, ben trovato a te, Federico. Lo descriviamo brevemente? Sì, Soyalism è un viaggio intorno al mondo che cerca di seguire il funzionamento della produzione di carne di maiale, la grande catena globale della carne di maiale che viene prodotta in Cina, negli Stati Uniti, e che per produrre questi giganteschi allevamenti intensivi, questi capannoni in cui ci sono decine di migliaia di capi e di bloccati, vengono foraggiati con milioni di tonnellate di soia che viene prodotta in Sud America. Io insieme a Enrico Parenti, che è il coautore di questo documentario, abbiamo girato un po' tutto il mondo cercando di ricostruire la filiera, cioè il funzionamento di questa produzione. Poi siamo andati a visitare gli allevamenti intensivi cinesi, siamo andati negli Stati Uniti dove tutto è stato creato negli anni 70, siamo andati in Sud America dove intere distese di quella che era una foresta, una savana, sono state trasformate delle monoculture di soia che vengono poi esportate in tutto il mondo, e siamo andati in Africa dove si sta cercando di convertire anche lì enormi territori alla produzione di questa, diciamo, di questo alimento per il mangime animale. Com'era partito tutto? Ma tutto è partito da una considerazione, cioè da dove viene il cibo che mangiamo, quali effetti produce sul pianeta, diciamo, un certo tipo di modello alimentare, come questo modello alimentare si sta modificando nel corso del tempo. Quindi io ed Enrico vogliamo fare, diciamo, un documentario un po' sulla globalizzazione alimentare. Ci siamo poi concentrati su quella che è su questa filiera particolare, perché ci sembrava emblematica di alcune delle principali contraddizioni del modello attuale, che sovraproduce, in cui le merci, il cibo merci si sposta da una parte all'altra del pianeta con effetti devastanti sul pianeta stesso, perché quando poi lo vedi noi effettivamente consumiamo, diciamo, nel mondo viene consumata una grande quantità di carne, questa grande quantità di carne ha un prezzo molto basso, ma questo prezzo molto basso non tiene conto di quelle che sono le cosiddette esternalità negative, cioè i costi effettivi che vengono addossati all'ambiente, addossati alla sopravvivenza del pianeta, addossati a interi territori che vengono trasformati in, come per esempio la zona del Brasile dove si produce la soia, vengono trasformati in delle specie di industrie per cibi che vengono esportati altrove. Il film è, chiederei, un viaggio investigativo in cui noi siamo andati alla scoperta del funzionamento di questo sistema, e anche in questo modo abbiamo cercato di rappresentarlo, cioè abbiamo rappresentato questo viaggio tra quattro continenti mettendo in luce, attraverso le storie delle singole persone che sono nei territori, attraverso anche l'intervento di alcuni esperti, diciamo, che hanno analizzato i diversi pezzi di questo settore, mettendo in luce quelle che Un altro dei problemi che abbiamo visto anche in un altro documentario sull'allevamento intensivo dei bovini, che riguarda anche l'Italia, è l'emissione dei gas serra. Ovviamente c'è l'emissione di gas serra, diciamo, per i bovini c'è l'emissione di gas serra determinata dal loro apparato digestivo, ma c'è anche un'emissione di gas serra spaventosa, di cui non si tiene debitamente in conto, che è determinata dal trasporto. Trasporto della carne che viene appunto spesso attraversa paesi interi, e il trasporto mostruoso, e questo è molto poco investigato, di quelli che sono le componenti dei mangimi, perché ormai come dire, gli allevamenti intensivi, il grosso degli allevamenti intensivi, che sono sparsi in tutto il mondo, ce ne sono anche in Italia moltissimi, nella primavera padana abbiamo in Italia 8 milioni di suini, che non sono tanti quanti ce ne sono in Cina, dove ce ne sono 700 milioni, quindi parliamo di numeri, però sono comunque 8 milioni di suini che hanno, diciamo, un impatto ambientale che non viene spesso considerato, perché gli 8 milioni di suini sono chiusi negli allevamenti quindi producono degli scarti, degli liquami che devono essere smaltiti e che spesso vengono sversati sul territorio, e poi soprattutto 8 milioni di suini devono essere nutriti, e per nutrirli noi importiamo ogni anno 3 milioni e mezzo di tonnellate di soia dal Sud America. La Cina ne importa 80 milioni di tonnellate, insomma sono questi spostamenti assurdi di derrate alimentari che producono emissioni di CO2, producono danni ambientali, e sono quelle che dicevo prima, sono le esternalità negative che non vengono computate nel prezzo che noi paghiamo alla fine per la carne, perché la carne è un alimento molto economico ormai, che sta diventando sempre più economico proprio perché il suo reale costo, diciamo, è scaricato sull'ambiente, cioè non è, diciamo, addossato alle industrie produttrici, ai produttori, ma è addossato, diciamo, all'ambiente, al suo complesso, e quindi sostanzialmente a tutti noi, a questo ecosistema viviamo, e che ne viviamo pure il deteriorarsi. Altro aspetto che emerge dal vostro lavoro è che quasi tutti gli animali da allevamento sono nutriti a soia, e quindi le carni a quel punto hanno quasi tutte lo stesso sapore. Sì, c'è un passaggio molto bello, secondo me, in cui Roberto Sterile, che è il capo del Movimento Sem Terra, un movimento che si batte da decenni per una distribuzione più equa della proprietà agraria in Brasile, che ha una storia di lotte incredibili in quel paese, che è un paese in cui il conflitto agrario è molto forte, e in cui che abbiamo incontrato a più riprese, e in cui lui dice appunto, mettendo in luce le contraddizioni di questo modello, che appunto vede lo spostamento dalla soia dal Brasile attraverso tutto il Brasile, fino in Cina, fino in Europa, e poi lui dice: noi ormai siamo abituati al fatto che questi animali una volta pascolavano all'aperto, e quindi una volta si cibavano di quello che offriva il territorio, e quindi avevano una dieta molto, molto varia. Invece, per permettere loro di stare chiusi in quei capannoni e per farli crescere il più velocemente possibile con dei semi proteici che gli diano molta energia, ormai si cibano solo di soia, che è diventato l'alimento principale insieme al mais dei mangimi animali, con il risultato che questa carne, la carne di porco, la carne di bovino, la carne di pollo, sostanzialmente hanno tutte più o meno lo stesso sapore, che non sanno più di carne, ma sanno di soia. Quindi, diciamo, noi per questo anche abbiamo scelto questo titolo, che è un titolo, diciamo, provocatorio e accattivante per il film, no? Soia, insomma, perché di fatto noi siamo circondati dalla soia, da queste produzioni gigantesche, senza in realtà saperlo, mangiamo continuamente soia. Il paradosso è che la soia, diciamo, nell'immaginario collettivo, nel nostro immaginario, è legata alle diete vegetariane, no? Il tofu, quindi è un sostituto proteico della proteina animale. In realtà la soia è l'elemento essenziale e costituente dei mangimi animali, quindi è assolutamente importantissima e rilevante per gli allevamenti intensivi. Nei titoli di coda del vostro documentario si legge che la Cina ha deciso che dimezzerà i consumi di carne, ma questo non tiene conto anche delle potenze emergenti come l'India, che hanno popolazioni immense, che invece stanno aumentando il consumo di carne. Ma guarda, il tema è che questo modello di consumo, che è un modello di consumo che si è sviluppato in Occidente, e dopo il secondo dopoguerra, diciamo, c'è stato un aumento esponenziale del consumo di carne da parte di tutti, perché questo rappresentava in qualche modo un accesso alla ricchezza, o meno una percezione dell'accesso alla ricchezza, quindi il consumo di carne si è generalizzato. destinato a Nord America e all'Europa, adesso si sta diffondendo un po' in tutto il mondo, si è diffuso in modo massiccio in Cina negli ultimi anni, dove si consuma una quantità mostruosa di carne, ma che comunque la metà pro capite di quella che si consuma in Europa e in Nord America, con tendenze comunque alla crescita, e si sta diffondendo in altri paesi emergenti, paesi africani che hanno delle crescite importanti di cibi medi e di peli, in altri paesi asiatici, di India, ma anche altri paesi. Allora, questo modello, finché il numero di persone che lo portavano, che ne beneficiavano, era limitato all'Occidente, era un modello molto dispendioso a livello energetico, ma ancora sostenibile con le risorse del pianeta. Quando accedono a questo modello popolazioni molto più importanti, come appunto quella cinese, diventa non più sostenibile, perché consideriamo che per oggi, soltanto oggi, sul pianeta Terra, ogni anno passano 70 miliardi di animali, e per cibare questi 70 miliardi di animali vengono utilizzati un terzo delle terre arabili per produrre il mais e la soia. Se il consumo segue la traiettoria che sta seguendo negli ultimi anni, nel 2050 noi avremo 120 miliardi di animali d'allevamento e due terzi delle terre arabili destinati alla produzione di quelle coltivazioni per i mangimi, e ovviamente non è sostenibile. Quindi il governo cinese in questo anno sta cercando in qualche modo di modificare questa traiettoria, ha fatto solo un annuncio per la verità di alcune linee guida per il futuro, dicendo nel 2030 bisogna cercare di limitare il consumo di carne. Bisogna vedere poi se riuscirà a implementare effettivamente delle politiche per modificarlo. Però al contempo ci sono tutta una serie di altri paesi che stanno accedendo a quel modello di consumo, e quindi a livello globale c'è un aumento spaventoso del consumo di carne. Io penso che bisogna invertire questa tendenza, bisogna fare in modo di ridurre progressivamente, soprattutto qui da noi, in Occidente, dove comunque il consumo di carne è molto più elevato. Pensa che in Europa ognuno mangia 80 kg di carne l'anno, in Nord America, Stati Uniti, Canada, in Australia 100 kg di carne l'anno, quindi sono consumi molto elevati. In Cina siamo sui 45, quindi circa la metà. Allora, l'importante secondo me nel futuro è cercare di ridurre progressivamente questo consumo, cercare di ridare alla carne quella dignità che aveva di bene un po' di lusso, che non si mangia tutti i giorni o due volte al giorno come negli Stati Uniti, ma magari una volta a settimana, quindi carne più buona, levata in modo diverso, e soprattutto superare quel modello, quel modello degli allevamenti intensivi, che è un modello che consente sì di fare economie di scala e di abbassare il costo alla vendita, ma che ha delle implicazioni ambientali, ma anche sociali, spaventose. Stefano, il vostro documentario sta facendo un giro festivaliero, ci lasci dei riferimenti web per seguirlo? Sì, allora c'è il sito www.soialisba.com, c'è la pagina Facebook in cui ci sono tutte le date di tutti i vari festival che stiamo girando adesso in Europa, e poi andremo negli Stati Uniti, e poi ci saranno tutte le date di proiezioni evento che stiamo facendo, che faremo a partire dal mese di febbraio-marzo anche in Italia, in una tournée che stiamo organizzando in questi giorni. Quindi invito tutti a mettere il like sulla pagina Facebook di Soialism, perché lì ci sono tutte le informazioni aggiornate in tempo reale, tutte le proiezioni e le possibilità di vedere il nostro film. Ricordiamo allora Soialism, un saluto e un ringraziamento al co-regista Stefano Liberti. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie al lupo, ciao, presto. Soialism in tour, con appuntamento a Roma al Nuovo Cinema Aquila, con proiezione e incontro con gli autori venerdì 15 marzo 2019 in occasione del Global Strike for Future. Sabina Pazzi, curatrice di una serie di appuntamenti cinematografici dal titolo Regia alle donne, a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, dal 6 marzo al 21 maggio 2019. Sabina, ben trovata. Ciao, ben trovato a tutti gli ascoltatori, e grazie di avermi invitato alla tua trasmissione. Ci racconti? Allora, intanto non sono sola. Siamo un gruppo, un'associazione della Casa Internazionale delle Donne, e con me c'è Loredana Monaco, Gioia Marchetti,